Allo stesso modo, l'emigrato friulano che fa ritorno al suo paese a specchio nelle acque della laguna si intenerisce a un canto di pescatori, un canto intonato sugli elementi più vicini alla vita della gente che trae sostentamento alla propria magra giornata dalla fatica sul mare alto. E tumburus aschila, sintazum tunara, al pestia e al suatara, al chiapa e al metalcos. Rivat sulla evada, sintazum grum di gleria, al clama la miseria, che veni a comprà. E pesso nono eschila, con qualche masaneta, al metil detta speca, el tratta d'imbroia. E pesso nono eschila, con qualche angudela, al chiapa la cestela, e su par papariam. E quale più intimo legame con il suo paese sotto il Canin avverte l'emigrato tornato in Val Resia quando ascolta la villotta che gli ricanta la storia dell'artigiano tipico della sua terra natale, povera ed austera. Un'ombra di tristezza sul suo volto udendo parlare dell'arrotino ammalato. Ma poi si rasserena la scherzosa quartina della fanciulla che si bagna il lembo della veste lavando lungo il torrente. Alle malatti i luce fuarfis, alla paura di murì, alla impegnare la carriole con speranze di guarì. Tiriti su un ninine, che il cotulin si bagne, l'amore al ti compagne, non stami a di no. Ma un'ondata di commozione prende tutti indistintamente i friulani tornati alla piccola patria, siano essi delle vallate alpine o della bassa, dei paesi affaccendati al davanzale delle colline o dondolanti nel riflesso delle acque dell'Adriatico, udendo le note accorate di una villotta d'amore. mesta come i rintocchi della campana che annuncia il trapasso della fanciulla amata. Oh, Sunai, Sunai Chiampanis, che il mio cu le par sclopà, cumo puarti in la mebiele, tal sagrat assoterà. E io sol, sun che stepiare, non le casche puoi di sta. Oh, la muart mi vegna a chioli, che il mio ben vuoi la chiatà. Ideale titolo per questa antologia di villotte, visioni canore del Friuli. Sono dedicate agli emigrati che ora rivedono la loro, la nostra terra, ma più ancora a coloro che non potranno realizzare quest'anno, o neppure quest'anno, il sogno di riabbracciare i loro cari. Per essi questi canti equivalgono a un augurio. Arrivederci presto in Friuli, a brindare col buon vino dei colli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 57esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Ermete Pelizzari e Dino Menichini. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio. Cori popolari.